24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 17 minuti inizia la terza parte di 24 Mattino di questo martedì 26 maggio. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Maria Latella, ciao, buongiorno, eccoci. Buongiorno, buongiorno Simone, e per una volta vorrei cominciare da cose italiane e soprattutto con una, come dire, disposizione ottimista, anche perché poi parleremo di cose che come dire, non è che ci portino sul lato brillante della nostra vita. E invece ci sono tre cose che mi hanno colpito oggi nei giornali e che vorrei citare brevemente. La prima, ne avete sicuramente parlato, è l'indagine sul comportamento degli italiani, l'indagine Istat. Mi ha colpito che nonostante tutto quello che anche noi abbiamo raccontato durante i mesi del coronavirus, ebbene, il clima nelle famiglie viene definito dai cittadini italiani buono, sereno, tranquillo, addirittura ottimo per l'8,7% e amorevole per il 3,8%. Questo non significa che non ci siano state donne picchiate in famiglia, però conforta che l'immagine che arriva da questi dati Istat è di una famiglia italiana che ha retto bene alla difficile situazione del coronavirus. E troviamo un'Italia tutto sommato equilibrata anche nel sondaggio che la Ghisleri ha effettuato per La Stampa. Alla domanda: il decreto rilancio sarà sufficiente a rilanciare la nostra economia? Il 52% risponde sì. C'è un calo ovviamente fisiologico nella fiducia del governo, che passa dal 48 al 43%, ma quello che colpisce anche qui è che elettori di fede diversa, da Forza Italia ai 5 Stelle, al Partito Democratico e anche a Italia Viva, che come si sa è sempre molto aggressiva contro il governo, ebbene, dimostrano comunque di avere, non so se un atteggiamento positivo verso il governo, ma comunque una certa fiducia per quello che verrà, indipendentemente dalle posizioni politiche. E l'ultima cosa che mi fa piacere proprio molto, perché sai Simone quanto tengo al tema della scuola, è la lettera che il vicepresidente di Confindustria per il capitale umano, Giovanni Brugnoli, ha scritto al Corriere della Sera, ribadendo quanto sia importante per l'industria italiana occuparsi di giovani e di formazione. Sì, e anche questo sì, mi sembra un bello spunto positivo per cominciare la giornata. Sì, Giovanni Brugnoli, che era stato nostro ospite, lo ricorderanno i nostri ascoltatori, e poi torneremo a chiamarlo sicuramente. Allora, di cosa parliamo oggi? Due argomenti, il tema degli assistenti civici, della movida, del controllo delle città, ci arriveremo tra poco col sottosegretario all'interno, ma prima vogliamo aprire il capitolo magistrale, sul quale tra l'altro vi preannuncio torneremo anche domani, perché poi qualche ascoltatore ha detto: ah, ma volete nascondere sotto, c'è sempre questa fissazione, no, volete nascondere sotto il tappeto lo scandalo, ma figuriamoci, siamo qua, ne parliamo, così come parliamo di tutti gli argomenti. E oggi ospitiamo Piero Toni, è un ex magistrato, è stato a Firenze, poi procuratore capo a Prato, era un magistrato. Toni, mi corregga poi se sbaglio nella descrizione, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, un magistrato di sinistra, dichiaratamente di sinistra, che qualche anno fa ha deciso di lasciare la magistratura, due anni prima della data della pensione, e poi ha scritto un libro nel 2015 che si intitola Io non posso più tacere, ed è in parte dedicato ai temi che stiamo affrontando, che sono messi sotto gli occhi di tutti gli italiani in queste ore, Toni, no? Sì, certamente. Direi che il leitmotiv di quello che ho scritto era: state attenti, perché qui si rischia di perdere autorevolezza e credibilità, e sono le uniche cose che servono per fare giustizia. E speriamo che non siamo arrivati che non ci sia arrivati al traguardo, ma purtroppo ci sono grossi indizi. E direi che la situazione è estremamente grave, e che il tutto derivante da quella politicizzazione, da quel correntismo di cui si parla da anni e che in qualche modo nessuno tenta di frenare. Maria, prego. Senta, dottor Toni, io non sono tanto d'accordo sulla politicizzazione dei magistrati. Io penso che sia molto umanamente solo una questione di carriere. Perché quello che emerge dalle intercettazioni non è che i magistrati, come dire, avessero dei grandi convincimenti, almeno quello che si legge da queste conversazioni ovviamente parziali. Tant'è vero che nel colloquio che ha suscitato scandalo, un magistrato dice: Salvini c'ha ragione, ma dobbiamo attaccarlo perché comunque serve in questo momento. Allora, la mia domanda è, essendo la carriera, no? Quello che sembra l'obiettivo massimo che emerge da queste conversazioni, lei che cosa suggerirebbe per cambiare i meccanismi con i quali si fa carriera nella magistratura? Perché decenni fa, ce l'ha detto ieri anche l'ex ministro Paola Severino, figlia e nipote di magistrati, un magistrato era ben contento anche di rimanere tutta la sua vita in una città di provincia, mentre adesso c'è l'ambizione di andare nella procura più importante o addirittura a fare il capo di gabinetto del ministro. Che cosa farebbe lei per togliere questo aspetto malsano dalla giustizia italiana? Ma lei ha parlato di ministero e ha parlato di uffici di procure, o perlomeno lo dava per sottinteso, che sono i centri di potere. E siccome direi che arrivare al potere, comandare, ci sono dei proverbi da secoli su quanto sia importante comandare, di avere potere, e in realtà la motivazione di quello che io chiamo correntismo e di politicizzazione è quella di fare carriera e di raggiungere il potere. È assolutamente cosa farei io? Innanzitutto credo che la prima cosa che farei è modificherei le campagne elettorali che si fanno per arrivare al CSM e attraverso il CSM gestire quelli che sono gli uffici direttivi e quindi gestendo gli uffici direttivi acquistare sempre più potere. E l'unico modo per farlo, a parer mio, c'è qualcuno che ora sta parlando di collegi uninominali anziché quelli che ci sono ora, io credo che non basti, sarei per il sorteggio. Dice: ma come? Il sorteggio, una cosa che un sorteggio fa ridere per cose così importanti. Noi abbiamo il Tribunale dei Ministri, come tutti sappiamo, che viene composto per sorteggio. Sì. Quindi non è che c'è. E poi il sorteggio non sarebbe fra persone in qualche modo eterogenee, per cui alcuni capaci e altri di mentecatti o degli squilibrati. Il sorteggio sarebbe fra persone che decidono tutti i giorni e tutte le mattine sulla vita delle persone che sono state filtrate e selezionate attraverso un concorso che è sempre più importante, e quindi il sorteggio secondo me non potrebbe far ridere nessuno, ed è l'unico modo per evitare, a parer mio, con la mia non piccola esperienza, visto che ci ho lavorato 45 anni in magistratura, è l'unico modo per evitare che si facciano, che si creino questi intrallazzi a fini correntizi. Però Tony, mi faccia tornare su un tema, insomma, non sempre con Maria Latella lavoriamo bene, ma non sempre concordiamo, insomma, io un elemento sulla politicizzazione, yes, io però no anzi, per carità, io un elemento di politicizzazione, insomma, lo vedo quel che emerge dalle chat di Palamara, ora lasciamo stare, in questo caso riguarda Salvini, in passato potrebbe aver riguardato altri, ed è questo che io le chiedo, insomma, nella sua esperienza, cioè la sua uscita dalla magistratura in questo modo così polemico, ha a che fare anche con questo, cioè c'è una voglia di pezzi della magistratura di bastonare quello che si ritiene un avversario politico? Ma io credo che non si possa dubitare sul fatto che si sia modificata anche la storia politica di questo paese attraverso la magistratura e attraverso quelli che io così per brevità possiamo chiamare processi mediatici, perché se esistono editori politici, e io penso che esistano, E se esistono uffici di procura che sono in balia di correnti e hanno motivazioni politiche, e penso che ci siano, e se l'unico processo a funzionare da noi in tempi ragionevoli, mi dispiace dirlo, è quello mediatico, e poi andate, rigiratevi indietro e voi vedrete che la politicizzazione c'è stata e ha segnato la strada di questo paese. No, vorrei chiarire con lei, dottor Toni, e anche con Simone. Quando io dico che non vedo la politicizzazione, intendo dire che in realtà si sceglie una corrente e magari anche un partito vagamente di riferimento, non tanto per convinzioni personali, quanto perché in quel momento aiuta a fare una carriera più rapida. Ma questo succede nella magistratura, succede nella pubblica amministrazione, succede, ahimè, anche nel giornalismo. E vengo ai fatti di casa nostra, perché non è giusto, come dire, ignorare il fatto che come dire, anche i giornalisti legittimamente, no, abbiano rapporti col potere e talvolta rapporti anche troppo intensi. Io le chiedo la sua opinione sul fatto che molti abbiano pubblicato queste conversazioni dei giornalisti con Luca Palamara, che in molti casi erano conversazioni ispirate alla necessità di avere notizie per poi scrivere i giornali. Ce ne sono, come dire, tantissime, l'ultima dettagliatissima è quella che offre Affari Italiani. Secondo lei, come ne esce in generale la stampa italiana, e che cosa c'è di male se un giornalista telefona a un procuratore? Poi gli articoli si scrivono anche con le fonti, no? Cioè, certamente, io non credo che ci sia nulla di male che un giornalista telefoni a un procuratore. Il male può venire quando il procuratore, in qualche modo, per tenersi buona la stampa più importante, ha rapporti preferenziali rispetto ad altri. Per quanto riguarda quello che adesso è successo in questi giorni, non è altro che un frame, è un punto di un percorso che è tutto uguale da decenni. Quello che, quando si parla dell'albergo, non mi ricordo come si chiama, mi pare Champagne o qualcosa del genere, quelle riunioni un po' carbonare o carbonare, si sono tenute da sempre, non è nulla da scandalizzarsi, nel senso che ci c'è da scandalizzarsi, ma non è una novità in questo senso qui. Per quanto mi dice lei, dice politicizzazione, è vero o non politicizzazione? È vero, una volta le correnti erano un modo di aggregazione di persone culturalmente omogenee, ecco, poi c'è stata questa degenerazione, chiamiamola degenerazione etica, chiamiamola degenerazione correntizia, chiamiamola come vogliamo, ma che mette a dura prova non soltanto, cioè innanzitutto consentitemi, crea una selezione dei più sfrontati maneggioni rispetto agli altri che non sono né sfrontati né maneggioni, crea una frustrazione della stragrande maggioranza dei magistrati che non stanno al gioco per cura della dignità della propria persona, e poi quello che più di tutti in qualche modo è pregiudicato è il povero cittadino, perché così viene giudicato da persone che sono selezionate in questo modo un po' strano. Ecco, sì. Poi io ho tentato di spiegare più volte nella mia vita, e quello che poi non è altro che quello che pensa e dice la gente comune, anche quello che ho scritto più volte, cioè, è la gente comune che sente queste cose. Ora, tutto ciò è già successo 100 volte, quello di cui stiamo parlando stamattina, bla bla bla bla, poi si dirà no, è un attacco concentrico alla magistratura, e si continuerà così chissà per quanto tempo ancora. Non si fa una riforma seria, non si fa la separazione delle carriere che eleverebbe la qualità del prodotto giustizia immediatamente, e non si prendono dei provvedimenti che potrebbero, non dico accelerare in tempi brevi, ma sicuramente alleggerire la situazione giustizia, come per esempio penso a quel divieto di reformatio imperius che soltanto noi abbiamo in Italia e che forse è eredità di 2000 anni fa, e così via. Tony, c'è una questione che viene posta oggi, secondo me in maniera molto efficace, dall'ex vicepresidente del CSM Vietti in un'intervista sul Foglio al direttore Claudio Cerasa, nella quale Vietti dice: guardate qua, il problema è sì la magistratura, sì, va riformato certamente, ma qua noi abbiamo una politica che si è appoggiata alla magistratura e, per così dire, ha delegato al diritto penale le sue responsabilità, cioè ha scaricato le sue responsabilità sul diritto penale, ed è uno dei motivi per i quali siamo a questo punto. C'è anche questo fronte? Sono sicuro, è una questione di mutuo soccorso, sicuramente, non c'è dubbio che anche la politica si è appoggiata e la politica non ha impedito che, e alla politica tutto è andato bene, non c'è dubbio, chiamiamolo mutuo soccorso, mettiamoci le virgolette e va bene così, ma che la magistratura, soprattutto nel quando si parla di magistratura in questi casi, e parliamo dei centri di potere che sono il ministero e gli uffici di procura, ma che la procura che la magistratura si appoggi anche ai politici, credo che sia, cioè, si potrebbe parlare per giorni, e di esempi sono innumerevoli, ci sono persone che sono state massacrate da questo sistema. Maria? Quello che emerge dalle intercettazioni pubblicate è che molto è Roma, cioè è vero che Palamara veniva chiamato anche da magistrati di Milano, di altre città, sempre per questa cosa del fare carriera, di andare in quella procura piuttosto che in un'altra, però il sistema è molto romano, al punto che si rivolgevano a Palamara pure per un biglietto dello stadio. Che cosa porta, secondo lei, il sistema romano a occuparsi di tutto, in modo che io ti do un biglietto per lo stadio e poi tu mi sarai grato per un'altra cosa? Che idea si è fatto lei? Ma direi che questo non si riferisce, non possiamo limitarlo soltanto alla magistratura. Diciamo che i canoni di vita sono legati molto all'appartenenza e all'amicizia da noi, e quindi io ti do ut des fa parte della vita. Non direi che sia questa una caratterizzazione soltanto di Roma, è un modo di vivere, e il criterio, io ho sempre detto che il criterio di appartenenza, d'altra parte, che è il criterio che in qualche modo caratterizza le cosche mafiose, e purtroppo lo vediamo anche in altri campi, ecco, ma non per quanto riguarda Roma, certamente Roma è l'ufficio giudiziario più importante o comunque più complesso, e quindi la corsa a quegli uffici è più forte, più forte. La ringrazio, e grazie Piero Toni, ex magistrato, autore del libro Io non posso più tacere. Grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie. Vi sentite assistenti civici oggi? Come vi sentite? 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp, anche e soprattutto audio. Ci risentiamo tra un attimo, ed è di questo che parliamo. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Tutti quei poliziotti che stanno in caserma adesso a fare non lo so cosa, che solitamente fanno il servizio degli stadi, ma perché non vengono utilizzati? Ma cosa c'entrano questi assistenti alla movida? Riguardo a queste persone che si aggireranno per le strade per far rispettare le regole, non si diventa gentili e responsabili verso gli altri in un solo giorno. Ci ritroveremo degli sceriffi per strada. Io non capisco perché in Italia si deve criticare sempre. Già paragoni con la Russia, stati dittatoriali. Con la protezione civile si è fatto sempre, io ho fatto protezione civile, a controllare le persone si è fatto sempre. Ora se se si controllano quattro scalmanati si parla di dittatura. Achille Variati, sottosegretario all'interno, buongiorno. Tra l'altro buongiorno. Ex sindaco buongiorno. Di Vicenza, quindi un po' sì, il territorio sì. L'ha gestito Variati, eccoci. Allora, che quando dico? Io quando Senta, sono Variati. Stato sindaco, sì, prego. No, dica, non voglio interrompere. Ho dovuto affrontare un'emergenza nella mia città, cioè un'alluvione. E io ricordo quanto furono utili i volontari, quelli che io chiamavo anche gli angeli del fango, no? Quanto furono utili i volontari con la loro passione, con la loro dedizione civica. Però ne parliamo. È un po' diverso. Maria, senta, prego. Senta, sottosegretario, il ministro per gli affari regionali, Boccia, dice che l'idea di mobilitare dei volontari, che ribadiamo, non saranno pagati, gli è venuta perché i sindaci appunto di tante città hanno chiesto una mano, perché indipendentemente da quello che pensiamo, quello che possiamo pensare o che pensa anche il nostro ascoltatore, la ministra dell'interno Lamorgese ha già mobilitato moltissimo le forze di polizia, che non sono un numero infinito. Allora, intanto le risulta che sia così? I sindaci hanno chiesto un aiuto al ministro Boccia, e poi ci spiega che cosa dovrà fare un volontario, ammesso che appunto per senso civico, quello che noi diciamo sempre che manca agli italiani e non è vero, no? Il senso dello Stato, qualcuno a gratis si metta lì magari a prendersi anche qualche insulto. Quali sono i limiti in cui dovrà svolgersi questo lavoro? Mi risulta che il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che è il sindaco De Caro di Bari, abbia chiesto effettivamente al governo la possibilità di utilizzare dei volontari. Io prima però ricordavo la mia esperienza durante l'alluvione e sentivo che qualcuno diceva sì, beh, però è una cosa diversa. No, non deve essere una cosa diversa, cioè non può nemmeno passare per l'anticamera del cervello, poi si figuri qui al Viminale, dove abbiamo messo in tutto questo periodo dal 10 marzo in poi, eravamo partiti con 40.000 unità, siamo arrivati a 70.000 donne e uomini delle forze dell'ordine che hanno garantito con buon senso i controlli in tutto questo periodo a beneficio della salute individuale e collettiva. Mai qui potremmo, come dire, dare un consenso a ronde, sceriffi, guardie civiche con incarichi di pubblico servizio. Sia ben chiaro che i controlli, le sanzioni e quant'altro sono materia delle forze dell'ordine, punto. Su questo non ci può essere nessuna confusione. Quindi che contorni deve avere se avrà questa figura? Dovrà essere per l'appunto un volontario, cioè prestazioni di volontariato con finalità di mera utilità, di mera solidarietà sociale, anche attraverso la rete del terzo settore, punto. Figure che nel mentre le forze dell'ordine fanno il loro lavoro anche sanzionatorio, possono aiutare le comunità locali, i sindaci, come del resto i sindaci stessi li hanno utilizzati senza tutto questo ambaradan, li hanno utilizzati ad esempio per dispensare i buoni spesa, no? Quando il governo ha dato ha distribuito ai comuni 400 milioni perché per i buoni spesa, che hanno utilizzato i sindaci? La Madonna, no, hanno utilizzato i volontari, punto. Questo semmai per noi al Viminale così pensiamo che possa essere utile, perché se invece queste figure con le loro pettorine eccetera diventano una specie, come qualcuno l'ha detto, di guardia civica, sì. No, questo anziché aiutare provoca problemi alle forze di polizia. Ma quindi, Variati, viene escluso l'utilizzo in funzione, chiamiamola, in funzione antiassembramento, ossia una funzione morbida antiassembramento, cioè non è l'ausiliare del traffico che viene là e ti multa l'auto in divieto di sosta, no. Ma è la persona che viene là e ti dice guarda, non hai la mascherina. Questa cosa la escludete? Diciamo che sa, escludere poi quando i volontari stanno sul territorio, insomma, potrebbe anche succedere che uno di questi volontari di fronte a una situazione possa consigliare di indossare la mascherina, ma è un consiglio, come può essere un cittadino che consiglia un altro cittadino, ma niente di più, niente di più. Non può essere niente di più. Niente di più, niente di più di questo. Quindi possono essere usati come consiglieri, non riesco a capire questa parte del ruolo. Allora, se la parte precedente, Variati, mi è molto chiara, penso che sia chiara a tutti gli ascoltatori, no? Che ne so, porti la spesa agli anziani, un esempio semplice, no? Banale. Porti il pacco spesa alla famiglia in difficoltà. Questa seconda parte ci è meno, no, meno chiara, meno ma infatti meno netta. Nella giornata di oggi e di domani si lavorerà anche tra i vari ministeri proprio per definire meglio questa le funzioni che possono avere queste figure. Però guardi che nel nostro paese il volontariato nei vari settori, dallo sport alla cultura e ovviamente al sociale, è un asse fondamentale. Non, per carità, non criminalizziamo i volontari, che sono una risorsa indispensabile per la coesione sociale. Dal vostro punto di vista, no? Dal Viminale dunque, il senso civico degli italiani, che viene sempre considerato molto basso, e invece in questa epidemia si è rivelato, lo dicevo anche prima citando i dati Istat, 9 su 10 mettono la mascherina sopra i 18 anni. Quindi dal vostro osservatorio, che cosa vi fa ritenere che possa essere un aiuto ai sindaci avere appunto questi volontari che girano? Magari può essere anche un aiuto per trasmettere diciamo informazioni alla polizia, che non può essere da tutte le parti, per dire guardate che lì in quel certo posto ci sono 500 persone assembrate? Ha anche questo ruolo di segnalazione? Dunque, innanzitutto confermo quanto lei diceva, e cioè noi abbiamo come forze di polizia controllato oltre 6 milioni di italiani durante questo periodo, e devo dire che le sanzioni che sono state emesse sono veramente un'inezia, meno del 5, attorno al 5%, il che vuol dire che il 95% di coloro che uscivano, peraltro, che poi la stragrande maggioranza, soprattutto nel momento più duro, era veramente in casa, il 95% di chi si muoveva, e si muoveva perché aveva un giustificato motivo. Ad esempio i commercianti, i pubblici esercizi sanzionati, chiusi per il non rispetto delle regole, sono un'inezia, meno dell'1%. Quindi direi che in questa grande emergenza sanitaria del paese, il comportamento degli italiani mediamente è stato un comportamento di grande responsabilità, e questo va dato atto dal sud al nord del paese. Che cosa quindi queste figure potrebbero fare? Lei dice potrebbero dare anche delle indicazioni laddove dovessero vedere degli assembramenti? Sì, certo, ed è lì però l'aspetto delicato, perché anche in questo passare le informazioni bisogna stare attenti a non far perdere tempo alle forze di polizia. Quindi la loro preparazione deve essere attenta anche sul piano informativo. Penso però, da ex sindaco, se mi consente, per tanti anni, che i sindaci abbiano bisogno di questi occhi civici, e lo hanno anche fatto in via autonoma, peraltro, in molte città. In tante realtà, ad esempio i parchi gioco, i parchi giochi, le aree verdi dove ci stanno i bambini, eccetera, un'occhiata se va tutto bene, se eventualmente fare delle segnalazioni. Quindi sì, ma preparate le segnalazioni. Allora sentiamo qualche ascoltatore, va Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti quanti. Io non sono assolutamente d'accordo, perché comunque non è tanto questa cosa che sono gratis. Il problema è chi li forma e quanto costa il formare e attivare questa gente qua, e poi che senso c'ha. C'è la polizia e i carabinieri che stanno a centinaia di decine attaccati agli stadi sono fermi, luoghi della movida di Milano sono tre, cosa ci vuole far girare qualcuno che abbia il potere, non dei cittadini singoli che possono alimentare delle controversie con gli altri cittadini. Sì. Non va bene, secondo chiaro, me. Chiaro, chiaro Marco. Inutile, Marco, chiarissimo. Giuseppe della provincia di Salerno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Io ho sentito il dottore del Viminale che ha fatto tutti esempi virtuosi. E allora è semplice andare a fare il volontario nel parco giochi, nell'area verde un po' meno perché ci sono persone che sono un po' più costumate. Purtroppo abbiamo una distorsione del problema. Cioè noi dobbiamo far capire ad alcuni che sono, chiamiamoli, meno preoccupati e un poco meno, virgolette, educati, che la movida non significa la canzone di Rovazzi, faccio quello che voglio, tanto nessuno mi può dire niente. Bisogna rappresentare una realtà. Durante il lockdown i nostri paesi hanno respirato, non c'erano più le bottiglie di birra a terra rotte, non c'erano quelle ferme sul marciapiedi, non c'erano le lattine buttate a caso. Vogliamo parlare del fatto che la gente ha dovuto imbattersi nel coronavirus per ritornare a lavarsi le mani prima di sedersi a tavola? Vabbè, Giuseppe, purtroppo c'è gente che è maleducata. Quindi il tema è la maleducazione, mi sembra di capire, Giuseppe, con un tono, giustamente la provincia di Salerno, Giuseppe, con un tono vagamente deluchiano. Per così dire, ci porta su questa questione. Variati, visto che non si riesce a inserire davvero fattivamente l'educazione civica a scuola, anche perché a scuola non ci si va, dice il nostro ascoltatore, insegniamo l'educazione approfittando del coronavirus, è così? Un po' sì. Abbiamo, ad esempio, l'igiene personale, in questo momento gli italiani l'hanno riscoperta, no? Non perché prima fossimo sporchi, però insomma qualche atteggiamento poco igienico c'era. Ora invece abbiamo capito che lavarsi le mani, vabbè, le mascherine sono un fatto anomalo che però veda, a proposito di mascherine, prima Marco mi pare nel suo intervento dice sì, ma insomma cosa ci vuole per attenzione, perché le forze di polizia non è che le possiamo utilizzare per andare a dire a uno senta, ma si mette, tira un po' su, le consiglio di tirare un po' su quella mascherina, perché la mascherina che copre la gola non serve assolutamente a nulla. Beh, è proprio un compito di forze di polizia, forse no, attenzione, perché durante il blocco della mobilità personale e del blocco delle attività commerciali, abbiamo avuto anche il blocco dei furti, perché pure i delinquenti non andavano tanto in giro perché potevano essere. Vede, adesso non possiamo, le forze di polizia non possiamo hanno congelare di seguire sì, non possiamo i, congelare i la situazione così. Sì, lei dice adesso devono ricominciare, sì, no? Stavo dicendo che ora la polizia dai controlli deve tornare alla grande difesa combattendo le delinquenze anche organizzate, attenzione, perché questo è un compito primario della polizia. Questo è. Maria. Senta, e se è uno di questi, diciamo, vigilanti o chiamiamoli volontari ben educati, risponde qualcun altro in modo brutale mandandolo a quel paese? Ecco, questi volontari saranno formati a essere zen, a porgere l'altra guancia, a non alzare la voce? Sì, perché se facessero altrimenti causerebbero solamente dei problemi. Se uno accetta in via in modo completamente gratuito e da pieno volontariato di fare un servizio per alcune ore alla propria città, se lo fa sa che quando gira per la città, quando consiglia, può trovare persone educate che lo ringrazieranno e trovare anche persone maleducate che potrebbero anche offenderlo. E quindi ci deve essere questo comportamento. La mega rissa, Variati, noi qua già vediamo la mega rissa tra l'assistente civico e un gruppo di ragazzi nel parco. No. Anche perché poi i ragazzi è una generazione che non è stata abituata a sacrifici, francamente, di giovani. Sono cresciuti in un tempo di pace, in un tempo... Sì, con alcuni problemi economici, però insomma le loro famiglie hanno sempre assicurato il tutto e anche di più. È la prima volta che quelle generazioni incontrano il dovere di alcuni comportamenti, quindi è un grande fatto civico e io penso che insomma i ragazzi lo stiano anche capendo, forse hanno anche pensato che il Covid sia una cosa che non li riguarda e sbagliano, come ben sappiamo, sbagliano perché rischiano loro di diventare veicoli e portare sofferenze e morte all'interno delle loro famiglie, sbagliano. E quindi più che la polizia con le pistole c'è bisogno di convincimento, ecco. E io credo anche che i volontari abbiano dato prova, se formati, di grandi servizi. Pensa a tutta la protezione civile. Certo. La protezione civile. Però quelli sono formati, quelli sono formati. Sì, questo infatti è l'elemento delicato su cui i ministeri proprio in queste ore stanno ragionando, perché non ci deve essere su questo piano nessuna faciloneria, perché la pagheremmo cara. Altri due ascoltatori via WhatsApp, via. Buongiorno, io sono abbastanza contraria perché si rischia così l'effetto secondino. Dopo tutte le lamentele che sono state fatte, no? Mandate chi ha reddito di cittadinanza nei campi a raccogliere gli ortaggi, i pomodori. Sapete che c'è? Inventiamoci un lavoro, così gli italiani stanno zitti. Li mandiamo a fare i controllori sulle strade, così sono tutti contenti e smettono di dire mandateli nei campi. Che funzione dovrebbero avere i volontari? Di allungare le file, di aiutare i gestori, e di far cosa? Si sta parlando di ragazzi che sono fuori, ragazzi che sono scatenati. Insomma, molti dubbi, no? Molti dubbi che permangono anche tra i nostri ascoltatori. Dobbiamo chiudere qua però, eh? Grazie Achille Variati, sottosegretario all'interno, per essere stato con noi. Buona giornata. A voi. Arrivederci, cara, buon lavoro. Cara Maria, noi ci ritroviamo ovviamente domani alle 8 e 20. Domani un altro giorno, vediamo che offre l'attualità che politica, ogni giorno ce n'è una. La casa, comunque torneremo a parlare, lo dico agli ascoltatori, torneremo a parlare un po' di giustizia, perché è il grande tema di queste ore, Ci trovate ovviamente su Facebook, Twitter, Instagram. I ringraziamenti, la task force di questa mattina: Peter Besca per regia, Alessandro Marco Tulli e Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Gloria Guerrera in redazione, Margherita e Francesco Ciaraffo i nostri autori. A domani alle 6:30. Ciao. Ciao.